La situazione è cambiata velocemente nell'arco di 3-4 giorni. Fino allo scorso fine settimana sembrava non esserci né allarme da parte dei cittadini né grandi provvedimenti da parte del governo. Come forse sapete, giovedì scorso Boris Johnson ha dichiarato di voler ottenere la famosa immunità di gregge e di praticamente non voler prendere nessuna precauzione, nessuna grande decisione per fermare il virus, e invece lunedì ha completamente invertito la rotta e ha iniziato a dare dei segnali molto forti, delle indicazioni abbastanza precise che appunto portano alla, se non lockdown come in Italia, sicuramente self-isolation come dicono qua, e che portano i locali, tutte le occasioni di raggruppamento, quindi sport, eventi culturali, eventi pubblici, a rallentare, se non cancellare, se non chiudere. E insieme a questo cambio di rotta del governo c'è stato un repentino cambio della percezione dei comportamenti dei cittadini, ma tutto nell'arco veramente di 3-4 giorni. Secondo te che cos'è che ha fatto cambiare idea Johnson? Da una parte certe reazioni del mondo scientifico, che hanno palesemente detto che l'immunità di gregge pensata così era un delirio. Qualcuno, qualche medico epidemiologo ha detto, quando ho letto dell'immunità di gregge ho pensato fosse ironico, stesse scherzando, fosse una barzelletta. E dall'altra penso anche un po' una reazione dei cittadini, perché per quanto è vero che fino allo scorso weekend c'era una grossa parte di popolazione che minimizzava, un'altra grossa parte, io direi un 50-50, ha iniziato ad auto-organizzarsi e ha iniziato a prendere provvedimenti da sé, e quindi penso che questo abbia un po' influito la decisione del governo. Ci sono delle attività che hanno deciso di chiudere molto prima che Johnson desse delle nuove direttive, e poi sicuramente è un aumento dei numeri, anche se appunto sui numeri c'è un po' di incertezza, però i numeri iniziano a crescere di giorno in giorno anche qua, se non raddoppiare. Quindi credo tutte queste cose, e poi non so quali altre motivazioni politiche ti hanno fatto cambiare idea, perché sicuramente ci sono delle motivazioni politiche. Tu hai citato i numeri, c'è un ordine di grandezza per capire l'andamento dell'epidemia in Gran Bretagna? Ho i numeri aggiornati sotto mano, questi sono i numeri dell'NHS, quindi il sistema di salute pubblico inglese. I casi totali sono 1950, quelli confermati giornalmente, quindi da ieri, sono 400, poi ci sono 65 ricoverati e l'NHS dice che ci sono 60 morti, mentre le testate giornalistiche dicono che ce ne sono 71. Appunto, ti dicevo che sui numeri c'è della confusione. Se non stiamo duplicando ogni giorno, comunque ci siamo vicino. In conseguenza, la domanda che sorge spontanea è, riguarda il servizio sanitario appunto britannico, cosa si devono aspettare i cittadini britannici proprio in virtù di questo sistema? Allora, il servizio sanitario britannico è pubblico, è ancora pubblico, ma è ridotto ai minimi termini. Ci sono stati molti tagli, molti di più di quelli che ha subito il sistema sanitario pubblico italiano. C'è una grandissima carenza di personale, questo ormai da anni. È risaputo che l'Inghilterra importa, permettimi il termine, personale sanitario, medici e infermieri dagli altri paesi, e invita gli studenti di medicina infermieristica a venire qua perché sono in perenne carenza di personale. E a proposito di questo ti segnalo una notizia che leggevo ieri: praticamente l'NHS si sta preparando, in caso di necessità, a reintegrare i pensionati e a far lavorare gli studenti. Questo ti dà l'idea della carenza di personale che ha l'NHS. I posti sono pochi, gli ospedali sono già abbastanza al collasso, i medici di base, che qua si chiamano GP, si stanno preparando all'emergenza dicendoti praticamente di non andare lì, non chiamare, ma di scaricare un'app che ti dà un percorso da seguire fino a quando sei autonomo. Insomma, praticamente stanno cercando di far fronte alla possibile emergenza mettendo, non so come dire, delle pezze, allontanando preventivamente possibili pazienti. L'altra cosa sull'NHS è che i lavoratori della sanità non vengono testati, vengono testati solo quando hanno sintomi gravi, e quindi puoi immaginare l'umore dei medici e degli infermieri, che si sentono a rischio, sono a rischio, ma si sentono anche completamente ignorati. E parallelamente c'è un servizio sanitario privato? Sì, ci sono dei servizi sanitari sanitari privati, ci sono dei servizi sanitari misti, ci sono delle cliniche private, anche medici di base, chiamiamoli così, privati, e quelli non gestiscono le emergenze però. Ci sono delle cliniche private, che ne so, devi farti la radiografia alla spalla, ecco, puoi andare privatamente, però non sono pronti a gestire un'emergenza. Si sta pensando di adoperare appunto questi supposti, queste cliniche per gestire l'emergenza, ma non so esattamente qual è la loro strategia, perché molte cliniche non sono attrezzate come ospedali, ecco.